Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Questo è un video sui miei acquisti trash. Allora, la prima cosa, se si muove, la me medesima del video, ecco, è questa penna che non mi sa, cioè non l'ho comprata, ma in realtà mi è stata regalata, ed è una penna a pugno da pugile, e premendo il tastino, bong, parte, e ti puoi autopunire quando dici cazzate, e ti pigli a pugni il mento. Poi la seconda cosa è questa mollettona, fatta di extension fucsia, ovviamente flo, che va attaccata ai capelli, ma va? Però io ci ho pensato dopo che io la coda non me la faccio quasi mai, andrebbe dietro praticamente quando fai la coda, quindi non so come metterla. È un acquisto molto utile, sì, molto molto. Volete sapere come ho passato questa notte? Niente di glamour, ho passato arrabattandomi a scrivere un pezzo che vedete oggi su lastampa.it, che è preso da un magazine americano. Sono quei pezzi che c'è un bel titolo e dentro non c'è scritto niente, però mi intrigava particolarmente perché riguardava la ricerca della felicità. Due notissimi psicologi americani dell'Università di Harvard sono 10 anni che stanno studiando laddove si allochi la possibilità di essere felici riguardo appunto ai consumi, cosa possiamo comprarci per essere felici. Sono arrivati alla conclusione, che è una conclusione che mi ha abbastanza sconcertato, perché in sé sembra quasi un richiamo a una vita ascetica. Dice: non conviene, ammesso che in un momento di crisi avete un budget limitato dedicabile ai vostri consumi futili, quanto potete spendere nelle cose futili, non in quelle utili necessarie, il mangiare, l'affitto, le bollette, le medicine e via dicendo. No, avete limitato il budget dei consumi futili. Come lo spendete? Beh, mi compro delle cose che mi piacciono, mi gratifico, mi compro un bel paio di scarpe, e mi compro una giacca, e mi compro un'automobile, mi compro una casa nuova, secondo, diciamo, del potere d'acquisto. Cioè no, sbagliate. Conviene investire in consumi esperienziali. Che vuol dire? Vuol dire, se io ho 100 euro, ecco, posso scegliere, mi vado a seguire un concerto di un gruppo che amo tantissimo, che mi ricorda la mia vita, via dicendo, mi passo 2 ore al concerto e poi me ne torno a casa con la musica dentro, ma non c'è niente di tangibile. Oppure 100 euro che ti puoi comprare, boh, una camicia, ma nemmeno niente di che, così, comunque bella, carina, faccio il fighetto una sera. Voi direte: la camicia mi rimane in tasca, e come no, io ce l'ho la camicia, la metto nel cassetto, dura nel tempo. Invece l'esperienza, sì, sento la musica, poi non mi rimane nulla. No, non è così. Da un punto di vista proprio quantitativo, dando una quantificazione alla nostra possibile felicità, che ne so, da 1 a 10, ecco, il concerto vi manterrà un 10 stabile dentro per tutta la vostra vita. La camicia dopo un po' comincia a rosicchiarsi il collo, i polsi, poi non va più di moda, poi ci farà vostra moglie o chi per voi, vostra madre, stracci per pulire per terra, e che ve ne fate? Beh, pensate sia vero così? Conviene spendere in beni di consumo o conviene spendere in esperienze? Voi come spendete i soldi, pochi o tanti che siano, destinati alla vostra quotidiana felicità? 800 24 0024. E poi sono carini perché questi gioielli, sia gioielli che le borse di J-Lo, sono veramente fantastici, mi piacciono tantissimo alcuni pezzi, e carini perché sono curati in ogni minimo dettaglio. Vedete, qua ci sta il logo di J-Lo con questa pietruzza, e gli orecchini sono fatti in questo modo, con queste pietre, carini, se no c'era con quella pietra nera all'interno. Poi, per quanto riguarda questi di scarpe, ho preso da H&M questo paio di scarpe carinissime, le ho pagate 19 euro. Ecco, e questa ragazza, come tante altre sue colleghe che hanno dei siti dedicati vagamente alla loro presunta qualità di esperta in fashion, fare le scarpette nuove che sai comprare al mercatino dicendo: guarda quanto sono belle, ecco, non le daranno felicità. Perché? Perché con 19 euro è difficile che un gadget ci renda felici, ma lei poteva spendere tanto, poteva spendere soltanto 19 euro, il suo budget era limitato. Ma è anche vero che comunque sia anche se avesse speso 300 euro per un paio di scarpe, quelle strafighette con la suola rossa sotto, beh, anche per quello non sarebbe felice, troverebbe un'altra, ce l'ha più belle, e la sua felicità sarebbe limitata, dovrebbe abbinarle, via dicendo. L'oggetto non rende felici, ma non a caso gli esperti di marketing stanno riposizionando le loro offerte non tanto sul valore dell'oggetto, ma sulla possibilità che ci fornisca delle esperienze gratificanti. Voi immaginate che soltanto la telefonia mobile, che ancora rimane svettante nei nostri consumi nonostante non giri una lira, perché non è tanto un oggetto ma è un generatore comunque di emozioni, quindi in qualche maniera uno strumento che ci permette di stratificare la nostra esperienza e quindi di essere felici. Marianna Aprile, buongiorno. Buongiorno. Marianna Aprile è l'amica e collega che giornalista di Oggi. Era di passaggio per Roma, la prendiamo come test dal punto di vista femminile, quanto realmente possa essere applicata su un piano concreto questa formula astratta. Conviene spendere i propri budget destinati alla felicità in oggetti di consumo o conviene spenderli in consumi esperienziali, chiamiamoli così, in fare delle cose che ci piacciono? Beh, che convenga... Cioè oggetti o speranze sarebbe o esperienze? Direi più oggetti o ricordi. Perché in realtà sia l'acquisto esperienziale, sia il leva quel vibratore, spegni. È il telefonino. Dai, il vibracol volevo dire. Ok. No, ma sia l'acquisto esperienziale o emozionale, no? Che è un acquisto esperienziale. Il telefonino, certo. Parliamo sempre così. Sia l'esperienza vissuta al posto dell'oggetto comprato, che cosa sono in realtà? Generatori di ricordi, puntelli nella nostra esistenza, no? Cioè, se io compro l'ultimo smartphone, il ricordo che ho dello stesso è pari alla sua durata, anche meno, perché dopo un po' non ci faccio neanche più caso. Quando esce quello successivo, quello che ho comprato già, nonostante io lo usi, non me lo ricordo più. Se invece con quei soldi faccio un'esperienza, genero un ricordo che è sempiterno. Ecco, ma e questo sarebbe bello, ma è come quelli che dici: tu guardi la televisione, io solo i programmi di Piero Angela, e poi invece guardano Maria De Filippi. Non è che noi ci conviene dire che in effetti vogliamo il bel viaggio, la bella musica. No, no, ma che sia una cosa concreta e non una pia illusione dovuta alla crisi, per esempio. Tu come li spendi? Rappresentato dal fatto che la pubblicità già sta virando su quello. Se voi fate caso, prima, per venderci un prodotto, puntavano tutto sull'emozione che questo prodotto ci avrebbe provocata. Adesso sempre più spot fanno leva sulla memoria, sul ricordo, sul recupero di un'esperienza passata che quel prodotto è in grado di fare, e questo segna... Una volta i biscotti li facevano belli grossi, dice Banderas. Inzuffosi. Memore dei suoi primi film. Vabbè. Samuele, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, lei come spende i suoi soldini destinati alla felicità? Io, dopo aver fatto un figlio con la mia compagna 3 anni e mezzo fa, non aver mai più viaggiato, risparmiato, agognato, portato alla fine del mese tutti i conti, io da 3 mesi sto tirando la cinghia nei miei consumi personali per regalare un capodanno a Parigi alla mia compagna e a mio figlio, perché penso che abbiamo bisogno di fare questa cosa tutti insieme e vivere questa esperienza che secondo me ci lascerà più ricordi e più emozioni di un qualsiasi oggetto da poter posizionare all'interno di casa. O... Quindi ecco, diciamo, la ricerca di questi psicologi americani, che ci hanno messo 10 anni per capirlo, alla fine porta a una conclusione reale e concreta. Ma questo secondo lei è applicabile al tempo della crisi o vale in qualunque epoca? Adesso, diciamo, dobbiamo scegliere, non possiamo avere botte piene e moglie ubriaca, bisogna scegliere qual è la cosa che... Per me che vale in qualsiasi epoca, adesso forse è più sofferto, è più selezionato, magari prima ti potevi concedere 2 cose, 3 cose, adesso devi per forza dare una priorità alla cosa. Io, grazie Samuele. Prima di fare questa scelta qua ho dato la priorità a tutto: casa, scuola, figli. No, quelli togliamo, quelle sono le cose necessarie, su quelle non si può intaccare quel tipo di budget. Ma io dico, rimane qualcosa comunque, mi compro qualcosa per me, capita, no? Mi vado a comprare qualcosa così mi tiro sulla giornata. Oggi probabilmente preferisco fare qualcosa che mi rimanga dentro ancorato. Luisa, buongiorno. Buongiorno. La mia esperienza è nuova, unica, ed è stata fantastica perché ha incontrato il favore di tutti. Praticamente per il mio compleanno non ho voluto fare solite feste con gli altri, che mangiare eccetera, né torte. Ho invitato tutte le persone che mi vogliono bene, che hanno in qualche modo contribuito a che il mio ultimo anno fosse passato in modo sereno, e ho invitato a visitare una città e dei musei con una visita guidata. E cosa gli hanno fatto di male queste persone? No, diciamo che quello che vogliamo creare nell'ambito della nostra famiglia è stare insieme, condividere, frequentarsi. Quindi anche lei aggiunge un bagaglio alle proprie esperienze, qualcosa, sì. Un patrimonio interiore. È stata veramente una cosa che ha incontrato un favore, un modo di coltivare i prossimi anni in modo proficuo, in modo qualcosa di concreto che rimanga e interessare di più le persone che appunto mi attorno. Sono felice che le persone che telefonano hanno queste lodevoli e invidiabili aspirazioni di accrescimento interiore. E chi scrive invece sugli SMS, mi scrive un ascoltatore: se avessi soldi li spenderei a mignotte di lusso. Gianpaolo, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì. Esperienziale, tutta la vita esperienziale. Lei cosa ha esperienza allora? Guardi, le faccio, il più bel esempio che ho per la mia vita è che a 58 anni ho preso il brevetto di pilota. E sono un avvocato, non è che sono... Che poi è una bella spesa, non è un gioco, diciamo. Beh, no, quale bambino non ha sognato di diventare pilota quando era bambino? Poi le cose della vita ti portano a fare altre cose. E quindi lei ha deciso di... spiccare il volo a 58 anni e a investire. Cosa ci avrebbe fatto con l'equivalente denaro del brevetto di pilota, che è abbastanza oneroso, penso? In oggetti cosa avrebbe potuto comprarci, per fare un esempio? Non so, una piccola automobile? Ci avrei potuto comprare un'automobile, ci avrei potuto comprare dei mobili, ci avrei potuto fare dei regali ai figli. Comunque i regali ai figli li ho fatti lo stesso. Vabbè, lei è avvocato, è ricco, che discorsi. Beh, ricco no, guadagno non male, ma insomma niente di che. Comunque anche lei ha fatto questa riflessione, potendo, ha scelto un'esperienza. Per carità, che ci vuole no pilota ormai. No, vabbè, spero lontano da posti abitati, però, se fosse possibile. Grazie Gianpaolo, sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Dove allochiamo il nostro budget per i consumi futili? In oggetti o in esperienze? Gli psicologi americani ci dicono: fate spese in esperienza, andate al mercato delle esperienze, con le esperienze sarete più contenti, anche se all'apparenza mi sembra che con la casa piena di bei gadget, ben vestito, con automobili fuori dalla porta di casa si viva meglio. No, perché sono cose, poi alla fine fate i confronti con gli altri, l'esperienza è inconfrontabile. Uno può dirti: ma quel posto fa schifo, a me è piaciuto, quel film è orrendo, io mi sono divertito, quella musica fa rabbrividire, a me mi ha ricordato cose inenarrabili dei tempi passati. Quindi non potete mai essere messo in crisi da qualcun altro. Invece con l'oggetto ti metti una cosa che hai comprato, hai speso l'ira di Dio, ti sei riempito di debiti per farli, ma come ti butta male questa cosa, o guarda queste scarpe non ti stanno bene perché hai la caviglia non proprio svettante, via dicendo, è da suicidio. Sirio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei investe in esperienza? Allora, io ho avuto in passato la fortuna di guadagnare parecchio bene, non ho mai speso soldi per oggettistiche varie che io ritengo tali, ma ho investito tutto in viaggi, per dirne una. Io ho girato l'isola di Pasqua a cavallo, sono stato in Amazzonia con gli Indos, gli Indios. Ecco, questo è stato il suo ultimo viaggio al telefono di Radio 24. Allora, prendiamo con Marianna Aprile, giornalista di oggi. Dicevi che già era presente nel marketing in generale, ma nemmeno quello troppo recente, il fatto che vendere esperienza conviene, anche perché costa meno produrle le esperienze rispetto a produrre un oggetto. Esatto. La catena di montaggio in esperienza è un valore fittizio. Io posso dirti: l'esperienza di stare con me in studio 20 minuti, tu dici che è impagabile, vedi, a me non costa nulla. Ecco, come no, invece ti risulta che esista? Ci sono già da qualche anno delle società, dei siti, eccetera, che accanto al solito pacchetto benessere, pacchetto vacanze, viaggio scontato, weekend romantico, vendono esperienze che altro non sono che weekend altrettanto romantici con nomi più allettanti, ma tra questo, diciamo, nel bouquet di queste esperienze vendute trovi anche delle cose fantastiche, tipo stringere la mano al Papa. Come si fa a vendere la stretta di mano del Papa? tu manifesti il desiderio di stringere la mano al Papa e questi signori fanno in modo che durante l'udienza pubblica eccetera tu ti trovi incidentalmente in prima fila mentre lui passa, in modo da poter stringere la mano con lui ignaro peraltro. Ma mica dà la mano a tutti il Papa. Beh, poi gli sta a te allungarla per dargliela, insomma, visto che hai pagato l'esperienza. Però... sì, ma dovrebbe essere in qualche maniera complice il Papa, non sarà mai. Dice un soddisfatto di rimborsare, cioè se poi il Papa non ti stringe la mano, tu rientri. Metti caso, ti dà un buffetto, trovo figliolo e ti dà un buffetto così. Ah no, quello era l'altro Papa. Bisogna pagare di più. Senti, invece, le donne sembra che, adesso non voglio fare la figura del bieco maschilista, sembra che in realtà diano un grande valore all'aspetto feticistico di alcuni oggetti che sembrano impagabili ad essere felici, certi particolari tipi di scarpe o non so, una volta potrebbero essere le borsette o degli accessori degli oggetti. Secondo te nella catena dei valori sta slittando questo desiderio? Il feticismo, in senso buono, non in senso patologico, nel senso l'aspetto quasi maniacale di sperato per avere qualcosa, si sposta verso, ho visto delle offerte, che ne so, percorso in una spa, che ne so, passi attraverso i sassi profumati, ti spalmano con il fango. Quello che si chiama andare dall'estetista. Esattamente quello qui. Questo ha un valore forte. Sì, però non è un caso, secondo me, che anche gli oggetti feticistici a cui tu facevi riferimento siano proprio quelli. Cioè le scarpe e le borse comunque avevano... l'acquisto di scarpe borse ha anche di compensatorio, di compensativo rispetto a delle mancanze. Non a caso si acquistano proprio le scarpe e le borse. Potremmo freudianamente parlare di tutto quello che rappresentano. Ma forse per l'uomo è una giacca, mi compro una bella giacca. Non lo so, ma per una donna si è di fronte a due strade, fondamentalmente, o appunto l'acquisto di bene materiale oppure l'autoregalo, perché l'acquisto di bene viene visto come acquisto, viene percepito, sentito come acquisto. L'autoregalo è appunto mi ritaglio il tempo, perché fondamentalmente di quello si tratta, di dedicare a me stessa qualcosa che mi crei un ricordo, che mi crei un'emozione, che può essere banalmente salire su un trenino regionale e arrivare in riva al mare per godere del vento nei capelli, banalmente, o il percorso ayurvedico per profumate. Diciamo che regalare il pacchetto con il trattamento dentro oggi è molto diffuso. Delle amiche si uniscono, cosa facciamo di regalo? Una volta abbiamo comprato un oggetto, oggi è un pacchetto molto ben confezionato, carta, fiocchi, nastrini. Intanto perché quello è diventato ancora più il superfluo, se ci pensi, cioè nel senso, prima poteva capitare anche al famoso ceto medio di regalarsi il weekend fuori, nel centro benessere. Adesso si tira tutti la cinghia, quindi già, come dire, si supplisce a un qualcosa che prima ci si poteva permettere, adesso no, quindi anche la scusa del regalo è spesso feconda per quel motivo. Ma poi soprattutto è un qualcosa, si tende verso qualcosa che aumenti di quel minimo la qualità media della vita, che si è abbassata un po', cioè, per tutti. Tipico regalo da Omar Els, il massaggio cinese a 15 euro. No, penso, lo so. Luisa, buongiorno. Luisa. Pronto? Sì. Sì, buongiorno Gianluca. Sì. No, voglio dire in premessa che sono seduta in macchina sotto casa mia, perché questa trasmissione mi ha così preso questo argomento che non volevo perdere neanche. Ti stiamo regalando un'esperienza. Sono proprio qui seduta sotto casa. No, io volevo. Quanto dire... pagheresti per questa esperienza? Volendo dargli una quantificazione ipotetica. Sì. Se un'amica dicesse ti regalo, invece che nel percorso alla spa o il massaggio, sì, di stare in macchina a ascoltare la radio 10 minuti, quanto varrebbe secondo te? Oggi, in questo momento, su questa trasmissione, però, cioè su questo argomento, no? Su questa trasmissione, non ha prezzo. Beh, perché... per dover capire la valutazione concreta e reale. 15 euro, 20, 50? Ma forse 100 euro. 100 euro, 100 euro 10 euro. Minuti. No, perché... 100 euro e 10 minuti per questo argomento. Mi sto organizzando, quindi... perché... No, posso... Non per me, Rob. No, allora, ma io potrei dare un numero telefonico e mettermi a casa. No, ma lo conosco perché ci siamo incontrati per una... Vabbè, adesso non entriamo in particolare. Allora, appunto, lasciamo perdere. Suo padre le ha lasciato una stalla. Dunque, mio padre 20 anni fa è morto e mi ha lasciato una stalla. Piena di mucche, vuota? No, vuota, perché era vecchietto. Allora io ho impiegato 20 anni, perché sto finendo adesso, e ho fatto tre piccoli appartamenti in questa stalla, mettendo dentro tutti i miei risparmi di una vita. Ho fatto l'insegnante, ho 65 anni. un po' di tempo fa mia figlia mi dice: io se dovessi lavorare 5 giorni alla settimana e guadagnare 1.500, lavorarne 4 e guadagnare 1.200, preferisco lavorare 4 e godermi le mie giornate. Sì, perché conviene. Io mi sono molto arrabbiata, però mi sono resa conto che io ho risparmiato tutta la vita e ora ho 3 appartamenti che vorrei quasi regalarmi. Vorrei svendere, ho veramente sacrificato tanto tanto tanto e sono qui molto pentita. Quindi non lei ha investito in oggetti concreti, tutto, e pentita. Tutto, con questi molto. Soldi avrebbe viaggiato il mondo, sarebbe stata nei paesi esotici. Tra 15 giorni per la prima volta mi sono regalato a 65 anni un viaggio. E dove è andata? In Kenya? No, non sono andata ancora, vado nell'antica Persia. Nell'antica Persia, sì. Il momento giusto per andare in Persia. No, dai, speriamo bene. Va bene. Non ci perda la testa. Arrivederci, no, grazie un abbraccio, Luisa. Arrivederci. Ringrazio Marianna Aprile che è stato prezioso supporto di questa folle trasmissione e mi si è aperta improvvisamente una prospettiva futura che valuterò nel tempo. Non immaginavo che ascoltare... vale così tanto, ma potremmo mettere su un business offrendo questo tipo di piacevole intrattenimento. Grazie, a domani.